Sindaco Orsoni, richiesta di arresto per Giancarlo Galan, un'inchiesta sul MOSE, il sistema di barriere per proteggere Venezia dall'acqua alta, scuote la città. 35 le persone in manette, 100 gli indagati. Negli ultimi 12 anni si sono perse 120.000 imprese, produzione scesa di un quarto, scrive il centro studi di Confindustria. Non siamo vittime di un destino ineluttabile, siamo noi che possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro, dice il presidente Squinzi. Salta dal decreto IRPEF l'estensione del bonus alle famiglie numerose monoreddito, tutto rinviato alla legge di stabilità. Per la Corte dei Conti il taglio è un surrogato, serve una riforma del fisco, dicono i magistrati. La Siria devastata dopo le elezioni farsa che hanno riguardato solo le zone lealiste. Ci collegheremo con l'inviato a Amalou, la città cristiana distrutta dalla guerra. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. Se volete le potete commentare, come sempre, al 349-238-6666, via SMS, scrivendo Effetto Giorno, a radio24.it, c'è il mio account Twitter, Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook. Iniziamo dunque dalla cronaca giudiziaria di questa mattina che riguarda Venezia. Sulla richiesta di arresto per il senatore di Forza Italia Giancarlo Galan dovrà pronunciarsi la giunta per le autorizzazioni. È stato già arrestato invece il sindaco di Venezia, Paolo Orsoni, del centro-sinistra, posto ai domiciliari con l'accusa di finanziamento illecito relativo alla campagna elettorale per le comunali del 2010. L'inchiesta avviata dalla Procura di Venezia riguardante gli appalti per il MOSE ha portato all'arresto di 35 persone. Tra loro l'assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso di Forza Italia, il consigliere regionale del PD Giampiero Marchese, due magistrati alle acque Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva, il presidente del Coveco, cooperativa impegnata nel progetto MOSE, Franco Morbiolo, il generale in pensione Emilio Spaziante, l'amministratore della Palladio Roberto Meneguzzo. Un centinaio le persone indagate. La Guardia di Finanza ha sequestrato inoltre beni per un valore di 40 milioni di euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vediamo di ricordare e di chiarire che cos'è il MOSE. Sentiamo. Il 4 novembre del 1966, giorno dell'eccezionale ondata di marea che sommerse Venezia, il MOSE avrebbe fatto comodo, ma la sua costruzione, ancora in corso, cominciò 37 anni dopo, per entrare nel vivo nel 2012 con la realizzazione delle prime barriere. La grande muraglia mobile che protegge Venezia dalle onde è divisa in quattro segmenti. Due si trovano a Lido, la bocca di porto più grande e più vicina al centro. Gli altri due sono a Malamocco e a Chioggia. Quando il livello del mare si fa preoccupante, le paratie, normalmente sommerse e invisibili, si alzano. In meno di 30 minuti, il cordone, lungo in totale 16 chilometri, mette al sicuro case ed edifici storici e mantiene le acque interne a livelli di guardia. Le paratie sono in totale 78, ciascuna del peso di 300 tonnellate. L'intero sistema MOSE, costato quasi 5 miliardi e mezzo di euro, è oggi completo per l'80%. La fine dei lavori, portati avanti da imprese tutte italiane riunite nel Consorzio Venezia Nuova, è prevista per il 2016. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Naturalmente a fronte di queste inchieste ci sono già delle reazioni politiche. Il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Ce l'abbiamo Elisabetta Fiorito? No, non ce l'abbiamo Elisabetta Fiorito. Allora, verremo alle reazioni politiche e anche ai commenti più avanti. Intanto, sempre sul fronte politico, ci sono questioni che riguardano la maggioranza. Questa mattina Nunzia De Girolamo, capogruppo di NCD alla Camera, è intervenuta, intervistata da Giovanni Minoli in Mix 24, per parlare appunto della durata dell'esecutivo e soprattutto appunto della maggioranza. Sentiamo. Noi siamo rimasti a tempo in questo governo, è veramente un contratto a tempo determinato, solo per fare quelle 4-5 misure che consentiranno all'Italia di essere messa in sicurezza. Poi ognuno deve tornare a casa sua e io penso che la differenza fra la vecchia e la nuova politica sia proprio il fatto che non si mischi il destino dell'Italia e del paese con quello delle proprie coalizioni. Piuttosto mi chiedo perché non torna Forza Italia al governo. Visto che sta facendo le riforme con Renzi. Così dunque Nunzia De Girolamo, intanto continuano ad arrivare, come si diceva, reazioni a proposito dell'inchiesta sul MOSE. Innanzitutto l'ultima in ordine di tempo è quella di Piero Fassino, presidente dell'ANCI, che parla appunto di Orsoni, il sindaco di Venezia arrestato questa mattina, e dice: Orsoni è una persona corretta. Le altre reazioni con Elisabetta Fiorito, che finalmente abbiamo raggiunto. Elisabetta, eccoci. Sì, scusate, le linee, gli SDN fanno gli scherzi. Allora veniamo alle reazioni politiche che non si fanno attendere agli arresti eccellenti sul MOSE. Il Movimento 5 Stelle parla di intesa bipartisan sugli appalti e chiede comunque le dimissioni di Giancarlo Galan da Presidente della Commissione Cultura della Camera. Auspica poi che la giunta per le autorizzazioni per votare l'arresto del deputato di Forza Italia sia questa volta più veloce che per il caso genovese. Alle 13 si riunirà proprio la giunta per le autorizzazioni della Camera, ma non si parlerà di Galan perché non era all'ordine del giorno. Il presidente della commissione, Ignazio La Russa, probabilmente però darà comunicazione dell'arrivo della richiesta di custodia cautelare. Da parte di Galan c'è uno comment sull'inchiesta perché non ha ancora potuto vedere le carte. Difende invece il sindaco di Venezia, il presidente dell'ANCI Piero Fassino, per il quale Giorgio Orsoni è una persona corretta. Il presidente del Senato Piero Grasso invoca massima severità nel caso in cui la Corte accerti il danno erariale. Per Massimo Cacciari il modo in cui si fanno le grandi opere in Italia è criminogeno e genera mazzette perché le procedure sono in mano a pochi soggetti, pochi enti che fanno quello che vogliono. Garantista Forza Italia, Giovanni Toti dice: le responsabilità politiche sono tutte da provare. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e vediamo anche di commentare quello che è successo. Una nuova inchiesta dunque dopo quella che ha riguardato l'Expo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, un tuo commento su questa vicenda. Ma sai, fermo restando che le responsabilità penali sono individuali e quindi saranno chiarite da questa inchiesta, e l'impressione è di grande sconcerto perché è troppo vasta la mappa di questo, di queste ombre che si allungano sugli appalti pubblici tra i comuni, l'Expo e le banche. La sensazione in sostanza è che ci sia una esigenza di grande trasparenza che non c'è, e non ci sono neanche però innocenti tutti da una parte e colpevoli tutti dall'altra. L'idea è che ci sia un intreccio, probabilmente dovuto anche a quello che dice Cacciari, al modo emergenziale con cui si affrontano le questioni, che è terreno di cultura per i comitati d'affari. Però questa trasversalità va spezzata, e non in modo soltanto retorico con degli annunci, ma verificando poi quali saranno i risultati reali di interventi che fino adesso non ci sono stati ancora con la sufficienza, con sufficiente energia. Io ti ringrazio nel frattempo Stefano, e di tutto questo torneremo a parlare più avanti con Felice Casson, che è senatore del Partito Democratico ed ex magistrato ed è tra l'altro di Venezia. Intanto saluto il collega del Sole 24 Ore Marco Rogari. Marco, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Per passare dalla cronaca giudiziaria a quella di politica economica, perché c'è questo decreto IRPEF che è a questo punto all'esame dell'Aula del Senato e sono saltate alcune cose che insomma ci si aspettava che ci fossero, no? Beh sì, insomma, soprattutto il bonus IRPEF che ha tenuto banco durante i lavori qui al Senato in commissione. Sul bonus IRPEF si è consumato un braccio di ferro tra il nuovo centrodestra e Palazzo Chigi, con il nuovo centrodestra che chiedeva l'estensione immediata del bonus alle famiglie numerose monoreddito, quelle con almeno 2-3 figli, e Palazzo Chigi d'intesa col Tesoro, che invece ha tenuto ferma la barra dicendo che al momento non potevano essere utilizzate nuove risorse e che quindi queste misure potevano essere adottate soltanto con la prossima legge di stabilità. Di qui un compromesso che peraltro non è un compromesso di cui i senatori di NCD vanno molto orgogliosi, a quanto sembra, che è quello di aver inserito nel testo una norma di principio, chiamiamola così, che obbliga il governo ad estendere il bonus dal 2015 il monoreddito con più figli, ma non lo si fa subito, lo si farà tra qualche mese con la legge di stabilità. Senti Marco, si andrà alla fiducia molto probabilmente? Sì, sì, quasi scontata la fiducia, adesso qui si sta procedendo con la discussione in aula, la fiducia potrebbe essere annunciata o preannunciata oggi pomeriggio dal governo, la differenza è fatto dagli adempimenti tecnici per la stesura del maxiemendamento necessario per poi votare la fiducia. Se il maxiemendamento dovesse essere già pronto e definito nel pomeriggio, potrebbe essere formalmente annunciato, altrimenti soltanto preannunciata per consentire al governo di avere più tempo per depositare il maxiemendamento. Ti ringrazio, grazie a Marco Rogari del Sole 24 Ore che segue costantemente queste vicende. Nel frattempo ci sono le dichiarazioni del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che dice che l'Italia ha fatto e continua a fare i compiti a casa. Tra il 2011 e il 2013 le manovre sono ammontate a 67 miliardi, pari a 4,3 punti di PIL. E ancora, se la crescita nominale fosse più sostenuta e la sostenibilità del debito non sarebbe in discussione. E non lo è, quindi la dichiarazione di Padoan è che la sostenibilità del debito non è in discussione. Ma ci sono altre questioni economiche di oggi, ci sono i dati del Centro Studi di Confindustria che fotografano gli ultimi di fatto 12 anni di crisi. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Brasile 7, Italia 8, un punto di distanza. Parliamo non di calcio ma di produzione industriale. Il nostro paese, così scrive il Centro Studi di Confindustria, scivola dall'ottavo posto nella graduatoria dei maggiori paesi produttori, superata nel 2013 anche dal Brasile. Nel 2007 vantava invece la quinta posizione. Confindustria dipinge dunque uno scenario a dir poco inquietante, con un calo definito anomalo del manifatturiero italiano rispetto al resto del mondo. Basti pensare che la produzione è calata negli ultimi 13 anni di oltre il 25% contro una crescita mondiale di oltre il 36%. Insomma, il mondo cresce e noi arretriamo. 120.000 le aziende che in questo periodo hanno chiuso i battenti, 1.200.000 posti di lavoro andati in fumo. E per questo il presidente di Confindustria Squinzi poco fa ha chiesto che all'industria venga riconosciuto il ruolo centrale che le compete, rimuovendo quegli ostacoli che ancora pesano sul fare impresa, perché, dice Squinzi, quel che è successo all'economia italiana negli ultimi 20 anni ha radici antiche nei mari del nostro paese, ma il nostro destino non è ineluttabile, dunque occorre una svolta, della quale, aggiunto Squinzi, mi pare che si stiano creando oggi le condizioni, dunque anche un attestato di fiducia nei confronti del governo Renzi. Ed Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, noi in realtà restiamo a Roma per parlare del famoso sciopero della RAI e delle contestazioni naturalmente che vengono fatte al governo, sciopero tra l'altro che insomma non si sa ancora se si farà oppure no, perché c'è la decisione del garante da una parte e dall'altra parte i sindacati che si spaccano il servizio. Divide i sindacati e alimenta nuove polemiche lo sciopero della RAI in programma l'11 giugno dopo lo stop del garante che lo ha dichiarato illegittimo. Ieri la CISL ha deciso di rinunciare alla protesta, non solo per l'intervento dell'autority, fa sapere stamattina Bonanni, c'è anche il Parlamento che ci ha rassicurato sulle sedi periferiche, spiega il numero uno della CISL, che chiede però ad azienda e governo di convocare i sindacati per discutere dei tagli annunciati dall'esecutivo, oltre 150 milioni, ma anche del rinnovo della concessione per il servizio pubblico. CGIL, UIL e le altre sigle sindacali confermano invece l'agitazione e contestano le motivazioni fornite dal garante, secondo il quale lo sciopero sarebbe troppo vicino a quello già convocato dall'USB per il 19 giugno. Il dibattito intorno alla RAI è surreale, commenta sempre dal fronte sindacale la numero uno della CGIL Camusso, che critica la decisione di vendere RaiWay e quella di prelevare i 150 milioni di tagli dal canone e quindi da soldi pagati dai cittadini. Dal canto loro i vertici di Viale Mazzini fanno invece appello all'azionista di maggioranza, il Tesoro, nel timore di nuovi tagli. Oggi la presidente Tarantola e il direttore generale Gubitosi saranno anche ascoltati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Notizia di poco fa, 9 poliziotti sono stati condannati a 4 anni di reclusione per il pestaggio di Stefano Gugliotta, un ragazzo che venne picchiato nel dopo partita della finale di Coppa Italia il 5 maggio del 2010, mentre stava andando col motorino ad una festa vicino allo stadio olimpico. Il giudice ha disposto anche un risarcimento di 40.000 euro. Cambiamo decisamente argomento e veniamo agli Italian Music Awards che ci sono stati ieri notte. I Dear Jack, il gruppo rivelazione di Amici e Ligabue, sono loro gli artisti più acclamati ai Music Awards. Loro hanno infiammato ieri al centrale live del Foro Italico a Roma il pubblico che assisteva alla cerimonia di premiazione delle stelle della musica italiana. Più cancelli e più ti resta. Dear Jack, arrivati secondi nel talent della De Filippi e considerati un po' come dei nuovi Modà, è stato assegnato l'oro per l'album Domani e un altro film. Per Ligabue invece, reduce da 2 date sold out all'Olimpico, ben 4 premi. Oltre al riconoscimento per l'album 5 volte platino Mondovisione per il singolo Il Sale della Terra, gli sono stati riconosciuti premi speciali per l'album più venduto dell'anno e quello per l'artista più trasmesso dalle radio. A Laura Pausini è toccato invece l'onore di aprire la serata accanto a Carlo Conti e Vanessa Incontrada e dopo un invito alla tolleranza basta omofobia, ha detto dal palco, ha ritirato i suoi premi per il doppio platino di 20 The Greatest Hits e per il suo programma TV Stasera Laura. A lei anche l'onore di consegnare ad Ennio Morricone il premio speciale per l'arrangiamento della Solitudine, il brano che l'ha resa famosa. Sul palco tanti duetti, da quello di Emma insieme ai Modà, quello di Francesco Renga con Elisa, a Max Pezzali con Emi Schilla. Tanti infine gli ospiti nazionali come il grande Pino Daniele, ma anche internazionali come i giovanissimi Lord e George Ezra. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il traffico, ci ritroviamo subito dopo e ci collegheremo con la Siria e con Malula. Malula, città letteralmente distrutta dalla guerra civile che sta insanguinando il paese. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Arrestato il sindaco Orsoni, richiesta di arresto per Giancarlo Galan, un'inchiesta sul Mose, il sistema di barriere per proteggere Venezia dall'acqua alta scuote la città, 35 le persone in manette, 100 gli indagati. Negli ultimi 12 anni si sono perse 120.000 imprese, dice Confindustria, produzione scesa di un quarto, l'Italia arretra ancora, sorpassata dal Brasile. Squinzi dice il destino non è ineluttabile, ora ci sono le condizioni per la svolta. Salta dal decreto IRPEF l'estensione del bonus alle famiglie numerose monoreddito, tutto rinviato alla legge di stabilità. E parliamo adesso di lavoro, prima di appunto andare a collegarci con la Siria. Naturalmente abbiamo qualche problema con i telefoni, non è esattamente come collegarsi come dire, con Roma o con Milano. Parliamo di lavoro per parlare di quello che per anni, e forse lo è ancora, è stato il simbolo del lavoro precario in Italia, ossia i call center. Oggi i lavoratori dei call center sono in sciopero e in corteo a Roma. Saluto Michele, spero di azzeccare l'accento, Azzola, segretario nazionale SLC-CGL, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori, l'accento era perfetto. Perfetto, allora, senta Azzola, come mai protestate? Per un motivo semplice, perché il call center nel tempo si è trasformato da lavoro precario per eccellenza al lavoro del futuro, e molti di questi ragazzi lavorano nei call center da 10-15 anni e hanno riposto le loro aspettative su questo lavoro. L'Italia però purtroppo non ha recepito correttamente una direttiva, la direttiva europea del 2001, che tutela i lavoratori, e ogni cambio d'appalto questi lavoratori rischiano di trovarsi per strada, mettendo in piedi un meccanismo in cui lo Stato spende una marea di risorse. Abbiamo presentato uno studio in cui si sono spesi 480 milioni di euro nel triennio tra ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, e il lavoro è itinerante, passa da una regione all'altra per poi finire all'estero con le delocalizzazioni. Un vero percorso a ostacoli, incomprensibile perché costa molto alle casse dello Stato. 480 milioni di euro dunque? Sì, ci spiega un po' meglio il meccanismo. Sì, il meccanismo il quale è semplice, il fornitore decide di cambiare la società che gli fa l'appalto di servizi di call center, e l'azienda che faceva quel servizio licenzia i lavoratori e li mette in mobilità a carico dello Stato. Il nuovo fornitore assume delle persone con gli incentivi della legge previsti per le nuove assunzioni e magari utilizzando anche i fondi sociali europei. Il risultato è che non si è creato un posto di lavoro, neanche uno, si sono spostati da un territorio all'altro e lo Stato in questi anni ha speso per il solo servizio dei call center 480 milioni di euro. Allora, grazie a Michele Azzola, che è un sindacalista della SLC-CGL, la salutiamo. Grazie per averci spiegato queste cose. Ora, come ampiamente annunciato nei titoli prima della viabilità, siamo in grado finalmente di collegarci con Alberto Negri, che è inviato del Sole 24 Ore in Siria. Alberto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, tu ti trovi in una città che si chiama Malula. Ci vuoi raccontare che città è e in che condizioni è? Innanzitutto, Malula è un patrimonio dell'umanità. Malula è la città dove si parla ancora l'aramaico, la lingua di Gesù Cristo, è la città del monastero di Santa Tecla, di San Sergio, è uno dei luoghi più antichi della cristianità e anche più famosi di tutta la Siria, ma famoso ben al di là della Siria in tutto il mondo, proprio per le sue caratteristiche, una sorta di gioiello dell'antichità incastonato sotto la montagna. Ebbene, oggi questa città è stata completamente incenerita. Incenerita in che modo? Che cosa ti sei trovato e che cosa ti trovi davanti? Innanzitutto, questa città è stata teatro di una battaglia durata mesi tra l'esercito siriano, gli Hezbollah da una parte e dall'altra i guerriglieri islamici di Jabhat al-Nusra, che si erano peraltro già infiltrati in questa città da un anno. Ebbene, questa battaglia è durata sei mesi e sono stati distrutti tutti i monumenti che c'erano in questa città. Pensate che entrando dentro il monastero di Santa Tecla, dove salendo ci sono le scale macchiate di sangue dei combattimenti, poi si arriva davanti al tabernacolo dove è stata portata via, sono state portate via anche le reliquie, sono stati sfregiati i quadri, sono state distrutte le icone, sono stati incendiati i libri e i codici antichi. E ancora peggio sono le condizioni del monastero del convento di San Sergio, dove praticamente è stata raso al suolo al suo interno, ma anche gravemente danneggiato fuori. E poi c'è tutta la città dove abitavano gli abitanti di Malula, 10.000 persone, di cui 70% cristiani e 30% musulmani, che hanno abbandonato questa città che oggi praticamente è una città fantasma. Ed è una città fantasma. Una città fantasma che non è la sola città fantasma della Siria, tra l'altro, perché vogliamo anche ricordare qualche numero per dare la dimensione di questa tragedia. Parliamo di 3 milioni di sfollati solamente fuori dai confini della Siria, e poi ci sono forse una cifra addirittura doppia, sono gli sfollati interni, i profughi interni, per così dire, le persone che si sono spostate dalle proprie città per andare a rifugiarsi in luoghi più sicuri, e 160.000 morti. E Alberto, una via d'uscita che non sembra vedersi. Purtroppo non se ne vedono prima di tutto perché la situazione sul terreno vede ancora infuriare battaglie quasi ovunque. Qui adesso io sto tornando a Damasco, nella stessa periferia di Damasco, in quartieri enormi, periferici come Duma, ci sono ancora combattimenti tra le milizie islamiche e l'esercito siriano, ma non si vede soprattutto una soluzione politica, e anzi addirittura c'è il terribile sospetto che non si voglia far finire questo conflitto, che in qualche modo le future generazioni di questo paese avranno soltanto un ricordo di quella che era la Siria di un tempo. A chi interessa che il conflitto in Siria non finisca, Alberto? Ma direi soprattutto alle potenze esterne. Le potenze esterne, sapete bene, l'esercito siriano, Assad e Bashar Assad, il presidente che si è fatto rieleggere ieri, sono sostenute dall'Iran e dagli Hezbollah libanesi, ma dall'altro fronte c'è un coacervo di centinaia di gruppi islamici che sono stati sostenuti dal fronte sunnita, dei sauditi, dei qatarini, ma anche dai turchi, e purtroppo bisogna dirlo anche dagli Stati Uniti e dalla Francia, che hanno fatto una scelta, diciamocelo pure, scellerata. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, dal quale nei nostri giornali radio e anche in Effetto Giorno torneremo a farci raccontare la situazione in Siria, perché a volte ci sono storie e vicende che tendiamo a dimenticarci, a lasciare da parte e poi ritornano fuori in momenti topici come quello delle elezioni, di questa sorta di elezioni farsa che hanno rieletto Assad, e però non riescono, forse a volte non riusciamo a dare le dimensioni della tragedia che si sta vivendo. A proposito di esteri, altre due notizie che sono arrivate questa mattina. La prima riguarda il nord della Nigeria, dove a quanto pare Boko Haram, gli estremisti islamici di Boko Haram, hanno ucciso decine di persone in una nuova serie di attacchi a villaggi dello stato del Borno, e questo è quello che riferisce la BBC. In uno di questi attacchi i miliziani hanno radunato delle persone nel compound di una chiesa e hanno fatto fuoco. E altre notizie terribili che arrivano dall'India, dove nello stato dell'Uttar Pradesh, dal quale abbiamo raccontato, sono arrivate molte storie di violenze sessuali. Una ragazzina di 15 anni sarebbe stata uccisa e impiccata, esattamente come era successo ad altre due ragazzine, probabilmente dopo una violenza sessuale. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Un'inchiesta sul MOSE, il sistema di barriere per proteggere Venezia dall'acqua alta, scuote la città, 35 le persone in manette, 100 gli indagati. Tra le persone arrestate il sindaco Orsoni, c'è una richiesta di arresto anche per Giancarlo Galan. Il procuratore parla di sistema illecito ben radicato. Salta al decreto l'IRPEF l'estensione del bonus alle famiglie numerose e monoreddito, tutto rinviato alla legge di stabilità, mentre arriva una sorta di mini riforma per gli uffici all'estero della Farnesina, stanziati 150 milioni di euro per il 2015 per attività per la promozione dell'Italia e contatti di natura economico-commerciale. Negli ultimi 12 anni si sono perse 120.000 imprese, produzione scesa di un quarto, scrive il centro studi di Confindustria. L'Italia arretra, ancora sorpassata dal Brasile. Stop all'installazione dei cookie per finalità di marketing senza consenso. Chi naviga online potrà decidere se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo ha stabilito il garante della privacy poco fa. La borsa. M come miglioramento continuo. M come module block. Vi presenta Borse in diretta. E prima una piccola correzione sulla notizia della mini riforma degli esteri. I soldi stanziati non sono 150 milioni, ma sono 15 milioni di euro. Questo giusto per chiarezza. La borsa oggi è negativa, meno 0,46% sul FTSE MIB, meno 0,44% sul FTSE O'Share, Francoforte meno 0,2%, Parigi meno 0,07%. Questo il quadro sui mercati. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, finalmente ci siamo, domani avremo la BCE, le decisioni della BCE, e finalmente insomma le borse potranno smetterla di essere così incerte. Sì, infatti con il contesto europeo resta improntato all'incertezza, appunto ancora una volta in attesa della BCE, tra l'altro c'è attesa anche per il beige book della Riserva Federale Americana, che questa sera delineerà lo stato della congiuntura statunitense. A Milano sono deboli ancora le banche, dove ci sono un po' di realizzi dopo i guadagni degli ultimi giorni. Senti, mentre invece va molto bene Telecom Italia, più 2,35%. Sì, Telecom in buon rialzo, questo in attesa di novità sull'assetto azionario e anche tra indiscrezioni sulla ripresa delle trattative fra Hutchison OnePoint e Wimpelcom per la fusione di Tre e di Wind. Questo risveglia lo scenario di merger and acquisition nel settore di TLC, alimentando acquisti sui titoli appunto del settore. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Corriere Sole 24 Ore, con l'euro, scusate, che quota 1,3622 contro dollaro. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. E saluto Felice Casson, è un senatore del Partito Democratico, è stato magistrato a Venezia e con lui vogliamo parlare di questi arresti che stanno scuotendo la città. Buongiorno Casson e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, vorrei avere un suo giudizio iniziale, poi magari scendiamo un po' più nel dettaglio. Ma direi che non è una sorpresa, nel senso che da almeno un paio d'anni la magistratura veneziana sta approfondendo accertamenti, indagini relativamente ai lavori che concernono la costruzione del Mose a Venezia e le attività in particolare del Consorzio Venezia Nuova, che è un concessionario unico, una figura giuridica atipica, unica nel panorama giuridico internazionale, contestata in Senato con delle mozioni da anni, da almeno circa 10 anni credo, a livello europeo, e questa figura ha creato una situazione, una zona per così dire grigia, all'interno della quale è possibile tutto. Quindi era proprio la struttura, no, di come erano impostati i lavori del Mose, secondo lei, che andava a favorire tutto questo? Sì, sì, io direi proprio di sì, perché proprio questa impostazione giuridica, sociale, economica perversa che poteva e può condurre facilmente a illeciti e illegalità di vario genere. Appunto le indagini e gli arresti già di un paio d'anni fa della magistratura che hanno condotto agli arresti, ricordo il presidente del consorzio Venezia Nuova, Mazzacurati, un illustre personaggio ben noto, l'altro vertice del consorzio che era Piergiorgio Baita, già arrestato peraltro una 20 anni fa, io ricordo che all'epoca ero GIP, l'avevo arrestato assieme ad altri, ci hanno dato contezza di un fenomeno estremamente diffuso. Ora questi nuovi sviluppi confermano che in effetti qualcuno degli arrestati aveva cominciato a raccontare su questo sistema degli affari e degli appalti, sui coinvolgimenti di appartenenti alla politica di vari partiti, di strutture, di forze di polizia e militari e soprattutto dei presidenti del magistrato alle acque di Venezia, che invece di controllare ha fatto sempre il tappetino del consorzio Venezia Nuova. Senta una cosa, un'ultima domanda, serve una legge nuova? Insomma, abbiamo visto il caso di Expo, abbiamo visto il caso del Mose, oppure come per esempio dice Cacciari, qua il problema è che in questo paese si lavora sempre sull'emergenza e visto che lavori sull'emergenza va a finire che naturalmente ti ritrovi con una zona grigia quasi obbligatoria, per così dire. No, ma sulla questione della zona grigia concordiamo, se però viene data questa indicazione così per dire vabbè, allora bisogna mettersi l'anima in pace, non sono assolutamente d'accordo, perché se, come penso, non è l'intervento di natura repressiva che può risolvere i problemi del malaffare, della corruzione in Italia, come non li ha risolti per la mafia e altre situazioni patologiche, credo che sia fondamentale invece l'aspetto preventivo, quello dei controlli, delle norme chiare e delle verifiche che devono essere fatte costantemente, e oltre naturalmente, ma questo è un discorso molto più ampio, cioè quello che riguarda l'etica e la formazione fin da giovani, da ragazzi e della nostra classe sia politica sia economica, cioè agire in trasparenza, pulizia e correttezza, questo dovrebbe essere il parametro di base per tutti. Grazie a Felice Casson, senatore del Partito Democratico. A chi ci chiede di che parti politiche sono i politici coinvolti, di tutte e due, perché Orsoni è del Partito Democratico, pur se non organico, Galan invece, come ben sapete, di Forza Italia, è stato anche ministro del governo Berlusconi. Spero che non ci accuserete di violare la par condicio, ma per fortuna le elezioni non ci sono più. Saluto un'altra senatrice del PD, che è Maria Cecilia Guerra. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Per tutt'altri motivi, perché è relatrice del decreto IRPEF. Stiamo andando verso la fiducia, mi pare, senatrice Guerra, no? A questo momento sembra molto probabile. È molto probabile che si andrà verso la fiducia. Le vorrei chiedere sul fatto, una domanda sul fatto che è saltato questo bonus, la parte del bonus per le famiglie monoreddito con numerose. Vorrei capire come mai è saltato e a questo punto come mai si ritiene di poterlo ripescare nella legge di stabilità. Mi permetta di correggere, non è saltato perché non è mai stato introdotto, era una proposta del nuovo centrodestra di allargare il bonus in essere anche a queste figure. Allora diciamo che la risposta che era sempre stata data fin dall'inizio a questo tipo di idee di allargamento è che gli obiettivi che si vogliono perseguire sono ovviamente condivisi dalla maggioranza, però sono raggiunti, raggiungibili con strumenti di tipo diverso, sistematico, attraverso la delega fiscale, attraverso la legge di stabilità. Conosco che è un intervento di tipo Senatrice, la stiamo perdendo. Vediamo se riusciamo a trovare un attimo di linea migliore, così nel frattempo mi dà l'occasione di rispondere ad un paio di ascoltatori che ci dicono: la struttura giuridica non c'entra, a proposito di Venezia, non c'entra niente, o meglio non c'entrerebbe se le persone fossero oneste. Oppure Robby che ci dice: ma che dite, è colpa del consorzio, non dei ladri che ne facevano parte. Allora, a parte che, vabbè, naturalmente siamo ancora nella fase preliminare delle indagini, quindi a dar dei ladri a qualcuno io sarei un attimo attento. Dall'altra parte Casson ci sta semplicemente dicendo che c'è un problema di struttura che favorisce poi i comportamenti disonesti. Nel momento nel quale crei una struttura in modo che non favorisca i comportamenti disonesti, probabilmente non risolvi il problema, ma sicuramente togli qualche elemento e qualche arma in mano ai disonesti. E il punto era questo, non era persone versus struttura. Mi scusi senatrice, vediamo se l'abbiamo recuperata. Proviamo. Mi sentite adesso? Sì, la sentiamo decisamente meglio. Allora ci stava dicendo, a proposito delle famiglie monoreddito, questo allargamento non era mai stato accolto, era semplicemente una proposta. Sì. Il problema è che il bonus è nato con un obiettivo molto preciso e anche circoscritto, cioè quello di essere un intervento di riduzione del cuneo fiscale, quindi intervenire specificamente sul lavoro dipendente e senza considerare altri obiettivi equitativi che possono essere molto importanti e che verranno invece affrontati in modo sistematico con la delega fiscale da un lato e con la legge di stabilità dall'altro. Quindi non è stata realizzata una proposta, ma la si è accolta, nel senso di dire l'obiettivo di fare un intervento specifico che tenga conto dei carichi familiari è rimandato pochi mesi, a un momento in cui avremo anche un quadro macroeconomico più sicuro e anche un quadro più preciso delle risorse che possono essere messe in campo. Come sappiamo sarebbe bello fare tantissime cose, ma siamo dentro dei vincoli di finanza pubblica molto molto stretti. Tra l'altro in questo modo mi sembra che lei risponda anche a quello che dice oggi la Corte dei Conti, che dice il bonus IRPEF è un surrogato, serve una revisione complessiva dell'imposta. È convinta anche lei di questo? Infatti si è posto come il bonus, lo che è un bonus, semplicemente un bonus, un trasferimento che viene compensato attraverso le ritenute IRPEF e contributive dei datori di lavoro. È un intervento sull'IRPEF, perché dentro all'IRPEF ovviamente bisognerebbe fare un discorso più ampio che riguardi la struttura delle detrazioni e quella delle aliquote. Sono d'accordo con questo rilievo. È d'accordo con questo rilievo della Corte dei Conti. E per gli incapienti invece tutto rimandato all'anno prossimo, dunque. Niente, il maledetto Senato sente adesso. Ecco, allora il punto era intervenire sul cuneo fiscale, quindi gli incapienti per forza da questa prima parte della cosa non potevano essere considerati perché non hanno un cuneo fiscale, e la logica era di farlo con uno strumento che potesse tradurre immediatamente in consumo, perché noi abbiamo un problema di domanda, di carenza di domanda nel nostro sistema. Questa è stata la scelta, ovviamente una scelta temporanea. Perfetto, allora abbiamo dei problemi, ho detto maledetto Senato non a caso perché sappiamo che là il cellulare prende malissimo, ogni volta ci dobbiamo collegare con qualcuno, è un po' complesso. Comunque la ringrazio, grazie a Maria Cecilia Guerra, senatrice del PD e relatrice al provvedimento sull'IRPEF che, come avete sentito, probabilmente andrà a fiducia. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Visto che abbiamo avuto due del PD, Giuseppe mi chiede: e tu Spezia di che partito sei? Non sono di nessun partito e non lo sarò finché continuerò a fare il giornalista. Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Varsavia, Mario Platero. Hello Warsaw, vitaj Polsko. La folla, l'avete sentita, la folla che ha riempito la piazza reale qui a Varsavia per celebrare il 25esimo anniversario della vittoria di Solidarnosc, della vittoria di un sindacalista dei cantieri di Danzica, Lech Walesa, che già a partire dagli anni 80 cominciò un movimento rivoluzionario per celebrare le prime elezioni libere nella Polonia, che era stata fino ad allora sotto il giogo dell'Unione Sovietica. Ecco, sentiamo il presidente americano Barack Obama. Article 5 is clear, an attack on one is an attack on all, and as allies we have a solemn duty, a binding treaty obligation to defend your territorial integrity, and we will. We stand together now and forever. Beh, l'avete sentito, Obama caricatissimo, e di fatto il suo messaggio è chiaro: le lancette della storia non tornano indietro, siamo al fianco del popolo polacco, ha detto il presidente americano, proteggeremo la libertà conquistata, non si può tornare alla guerra fredda perché non si può ricostituire, non è immaginabile, ha detto Obama, ricostituire una federazione sovietica, quel tempo è passato. Ma devo dire, mi ha anche colpito in particolare questo messaggio del presidente polacco, un messaggio diretto a Mosca e alla popolazione russa. To w jakiejś mierze jest symboliczne wydarzenie, bo nie tylko symboliczny jest czas przyznania tego odznaczenia. Il senso non è tanto per garantire la sua popolazione che non si cederà alla minaccia di Mosca che preme i confini dell'Ucraina, ma chissà, potrebbe premere ai confini di altri paesi in un futuro non lontano, Komorowski che ringrazia l'alleato americano, ma soprattutto che si rivolge al popolo russo. A zarazem udanej kadencji pana prezesa. È meglio pensare alla crescita economica, dice in sostanza, alla crescita economica condivisa, piuttosto che pensare all'espansionismo che non appartiene più al nostro tempo. Він своїм тілом прикрив український марш і український народ, бо для нього Україна понад усе. Qui invece sentite la dichiarazione del nuovo presidente ucraino Petro Poroshenko. Prima di questa manifestazione in piazza si è incontrato questo industriale del cioccolato che ha fama di essere incorruttibile grazie anche alla sostanziosa ricchezza che ha già accumulato prima di essere eletto, vi dicevo, ha offerto questo nuovo presidente a Putin di incontrarsi, ma Putin per ora non ha risposto. Intanto lo ha incontrato Barack Obama questa mattina, ha messo così il presidente americano la quarta gamba di questa tappa a Varsavia, che diventa storica secondo me per l'accumulo di aspetti concreti da una parte e simbolici dell'altra. La prima gamba, ricordiamolo, è stato l'annuncio dell'aumento delle risorse sia finanziarie che militari per la NATO, $1 miliardo in arrivo dall'America, un aumento al 2% del PIL polacco per nuove risorse militari. La seconda gamba, è stato l'incontro con 9 paesi dell'Europa orientale, dell'Europa centrale per lanciare un messaggio di solidarietà a loro e di sfida a Putin. Questi paesi non saranno abbandonati, Barack Obama ha ricordato che l'articolo 5 della Carta della NATO, di cui questi paesi sono membri, resta la garanzia per tutti, un attacco a un singolo paese diventa un attacco contro tutti gli altri, ci saranno nuove pattuglie navali sul Baltico e nel Mar Nero, un rafforzamento delle presenze locali. La terza gamba, ve l'ho detta poco fa, quella di oggi, l'incontro col leader ucraino Poroshenko, e la quarta, il bagno di folla qui in piazza a Varsavia, un misto di aspetti simbolici, emotivi, romantici, come appunto la piazza di Varsavia, e di aspetti concreti. C'è di fatto un rafforzamento militare di questa, la novità, che si affianca alle sanzioni contro Mosca. Dziękuję Polsko, God bless Poland, God bless America, God bless our unbreakable alliance. Thank you very much. Più tardi, anzi fra una mezz'ora, partiamo per Bruxelles, da lì il messaggio sull'Ucraina libera sarà ripreso a livello dei 7 grandi, infine domani il viaggio a Parigi, la Parigi di Hollande, la Parigi delle due cene, il mistero delle due cene, il presidente francese vedrà prima Barack Obama e poi per un'altra cena più leggera, dicono, Vladimir Putin. Venerdì le celebrazioni in Normandia, sappiamo che proprio venerdì Putin ed Obama si parleranno durante la colazione. Vi lascio con una riflessione finale che ci riguarda. Cosa significa per noi, per l'Italia, questo aumento al 2% del PIL polacco per le spese per la difesa? Beh, significa che le pressioni aumenteranno perché da noi si faccia altrettanto, e questo mi viene, devo dirvi, da un alto funzionario al seguito della Casa Bianca. Uno dei vantaggi di questi viaggi con il White House Press Corps è quello di poter avere accesso ai senior officials più vicini al presidente. Bene, uno di loro mi ha detto: il primo fronte fragile della NATO oggi è a Oriente, con l'Ucraina sotto minaccia, ma il secondo e subito dopo, un secondo prossimo, è il fronte del Mediterraneo, la combinazione di flussi di immigrati clandestini quasi illimitata, l'instabilità della Libia, il rischio di infiltrazioni terroristiche, e beh, tutte queste cose rendono il Mediterraneo instabile. I nuovi stanziamenti necessari, questa volta non per l'Europa orientale, ma per quella meridionale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questo viaggio europeo del Presidente Obama, e vi rimando ad america24.com, a Twitter, @MarioPlatero, seguiremo gli eventi in continuazione. Intanto vi lascio con la canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di unità, abbiamo parlato di forza, abbiamo parlato di un presidente americano che ha chiamato a raccolta i paesi dell'Europa dell'Est e che ha aumentato le risorse della NATO. Il messaggio è chiaro: dobbiamo essere più forti. Dunque, mi sembrava perfettamente adatta la canzone di Kelly Clarkson, Stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Da Varsavia è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, a Lorenzo in assistenza e redazione. Un grazie a tutta la redazione di Radio 24, a tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno a radio24.it per scrivere, lamentarvi, insomma tutto quello che volete. La trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo con GR24 tra pochissimo.